Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, in questo mese di agosto che si conclude questa sera molti di voi, molti di noi avranno avuto l'opportunità di girare l'Italia, di scoprire magari qualche angolo nascosto, segreto, bello che ci ha sorpreso. E allora vi segnalo due libri che hanno a che fare proprio con questo grande patrimonio di bellezza segreta dell'Italia, un patrimonio che può diventare anche una grande risorsa economica. E comincio con un libro che ci parla dell'Italia agricola. È il libro di Giorgio Boatti che si intitola Un paese ben coltivato, viaggio nell'Italia che torna alla terra e forse a se stessa, è pubblicato dalla Terza, 264 pagine, 18 euro. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia ormai, che mostrava tutta quanta le sue sfide, sfida il tempo e si sì, il vento e tu lo sai, sì, sì tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita. Il libro è un'inchiesta sulla ricchezza della produzione agricola italiana che parte proprio dai versi di Mogol nella canzone di Battisti, di cui abbiamo ascoltato qualche battuta, che ne sai tu di un campo di grano. E proprio da un campo infatti si parte nella pianura tra il Po e il Ticino, dove l'autore abita in mezzo alle produzioni agricole che lo incuriosiscono e lo portano in giro per l'Italia, un'Italia nella quale, ci ricorda, molto terreno agricolo viene consumato ogni anno. E allora, scrive Boatti, il paese ben coltivato, amato dal sole e prediletto dal clima, quello che forniva il meglio dei cereali, della frutta e della verdura a tutti gli altri paesi d'Europa, riuscirà a cambiare rotta e chi saranno i protagonisti di questo cambiamento? E a queste domande cerca di rispondere il libro, che presenta alcune delle eccellenze agricole presenti in tutta Italia e i loro protagonisti, tutti caratterizzati da una grande carica di fiducia, di motivazione, di innovazione che ha spesso fatto rinascere colture ormai quasi esaurite. E sentiamo dal libro una testimonianza del commercio agricolo poco nota, l'asta che stabilisce il prezzo del radicchio rosso di Chioggia. La rossa arriva all'ortomercato di mattina presto, quando si formano le partite della merce in vendita. Poi, nel giro di pochi minuti, inizia l'asta. Funziona con offerte all'orecchio. Ogni grossista a turno sussurra il prezzo al chilo che è disposto a pagare per la partita che sta sui bancari. Ovviamente i prezzi fluttuano giorno dopo giorno e all'interno della stessa giornata, a seconda della merce disponibile e della richiesta dei consumatori. Il battitore ha un ruolo decisivo. Delle singole offerte di acquisto non c'è la minima traccia scritta. Tutto sta nella sua memoria. Nel corso di quello che assomiglia a una specie di silenzioso e surreale balletto, un uomo al centro e un susseguirsi di uomini che a turno gli si avvicinano, la testa sulla sua spalla, le labbra accostate che gli bisbigliano qualcosa all'orecchio, il battitore rimane imperturbabile. Non lascia trasparire reazioni. Tuttavia è reattivo, seppure in un suo specialissimo modo, al succedersi delle cifre che gli vengono versate nell'orecchio. Le oscillazioni non sono indicate da nessun indice. Non c'è tabella elettronica o altra diavoleria che le misura. Il tutto va interpretato. Da una ruga severa, da un ghigno improvviso, da un particolare inarcarsi della spalla del banditore, i veterani dell'ortomercato, ognuno a modo proprio, sanno decifrare le mosse dei concorrenti. O almeno pensano di poterlo fare, adeguando all'istante le proposte. Il banditore è il punto di oscillazione di quei pochi o tanti centesimi di euro. Il prezzo varia in questo periodo dai 50 ai 70 centesimi, dipende da infinite variabili, che decidono alla fine in che mani finiranno le partite di merce in vendita. Da qui la rossa di Chioggia inizia il suo viaggio, che la porterà sino alle nostre case. Insomma, anche questa è un'Italia bella e sorprendente, come quella che avrebbe tutti i presupposti per sviluppare grande ricchezza economica attraverso il turismo. E di questo tema parla Emilio Casalini, un giornalista che ha scritto Fondata sulla bellezza. Come far rinascere l'Italia a partire dalla sua vera ricchezza, è pubblicato da Spelling e Kupfer, 118 pagine. L'inchiesta di Casalini riguarda le potenzialità ancora non del tutto espresse del turismo italiano, e che dovrebbe partire naturalmente proprio dal patrimonio di bellezza diffuso in tutto il paese. Ma come avviare questo processo di intensificazione dell'utilizzo del potenziale turistico? Casalini affronta molti aspetti, innanzitutto quello di ricostituire, di rafforzare il senso di orgoglio dell'identità degli italiani nei confronti del loro paese, e poi tanti altri specifici che comprendono per esempio l'arretratezza di molti servizi piuttosto che le condizioni di molte risorse culturali a partire dei musei. E di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Emilio Casalini. Buonasera a voi, grazie. Emilio Casalini, in questo libro sulla bellezza e sulle occasioni perdute dell'Italia, a un certo punto all'inizio lei scrive che l'Italia è come dissociata, gli italiani e l'Italia viaggiano su due binari paralleli, la nostra realtà sembra dissociata dalla nostra terra e dalla nostra storia. Ecco, che cosa vuole denunciare con questa frase? Qualcosa che forse delle ragioni storiche, visto il nostro percorso per arrivare all'unità d'Italia, ma forse non all'unità di un senso comune di italiani, come hanno fatto invece altri paesi. Per cui anche rispetto agli stereotipi, noi vediamo che gli stereotipi sui tedeschi funzionano, sui giapponesi, sul lavoro, eccetera. Su noi, quando siamo all'estero, ci vedono, pensano agli italiani, pensano come un popolo di casinisti, di gente che non sa organizzarsi bene, che pizza, mandolino, eccetera, però dopo, quando pensano alla bellezza, pensano agli italiani. Ecco dove c'è la dissociazione. Cioè, quello che rappresenta l'Italia e anche paradossalmente gli italiani nel mondo è la bellezza, però se pensano agli italiani non pensano a questo, e qui è un percorso da fare per recuperare la distanza tra queste due dimensioni. E infatti lei parla dell'esigenza di una visione condivisa, di un progetto finalizzato anche alla creazione di una propria identità di popolo. Ecco, ma questa visione e questo progetto si possono calare dall'alto o serve anche una spinta dalla società? Molto dalla società. Le due cose devono andare per forza, credo, di pari passo. Lo Stato deve portare a una governance molto forte, facendo una scelta anche lì identitaria per il settore del turismo e della cultura come fenomeno di sviluppo economico. Il settore del turismo cresce del più 5% all'anno, e le proiezioni sono così per i prossimi 20 anni. Il settore dell'industria cala costantemente da 40 anni. Allora, lì c'è una scelta di un governo che decide dove investire davvero le proprie risorse, e dall'altra parte c'è un popolo che forse dovrebbe proprio dalla base capire che la tutela del proprio territorio, della propria bellezza in questo caso, che significa semplicemente anche una strada che non deve essere sporcata da una carta, o significa il rispetto di un pedone italiano o turista straniero che sia che cerca di attraversare la strada, e a Roma significa rischiare la vita costantemente. Allora, il percorso di un popolo che decide di tutelare se stesso, in questo senso anche la propria maggiore risorsa, è un percorso che inizia molto lungo, forse, per recuperare questa distanza, rispettando la nostra terra, rispettando la gente che arriva, imparando ad accogliere con umiltà e non questa presunzione, cercando anche di non fregare le persone. Ecco, a proposito di questa vitalità del turismo alla quale ha accennato, come mai secondo lei questo potenziale non viene colto, non viene compreso? Forse c'è una prevenzione antica nei confronti del turismo che era considerata quasi un'attività residuale? È stata un'attività che è stata per molti tempi troppo facile. Per cui avevamo queste grandi risorse, la gente viaggiava poco e venivano a un turismo ridotto e veniva molto facilmente in Italia. Siamo cresciuti con un po' la leggenda che avevamo la maggior parte del patrimonio culturale, artistico era in Italia. Purtroppo non è vero, noi abbiamo il maggior numero di siti dell'UNESCO, sono 50, ma i siti dell'UNESCO sono 890 in totale, quindi noi ne abbiamo una parte e gli altri sanno sfruttarla meglio. Noi ci siamo adagiati e abbiamo perso quella capacità di ascolto e di evoluzione che in ogni settore sono fondamentali per rimanere competitivi. Faccio un piccolissimo esempio: il maggior numero di turisti, sia in termini di numero che in termini di ricchezza, del mondo sono i cinesi. L'anno scorso, su 1 miliardo di turisti, 100 milioni erano cinesi, ed è gente che ha molti soldi. Bene, noi non sappiamo accogliere i cinesi, perché il cinese beve acqua calda e noi offriamo, come gli americani, l'acqua fredda. Non c'è un bollitore nelle nostre stanze degli alberghi. Il cinese non viene, non ci torna e noi crolliamo nella classifica, per cui la Germania va al più 7%, la Croazia raddoppia le cifre e noi abbiamo l'ennesimo calo, l'anno scorso meno 4%. Crolliamo anche nella statistica del cosiddetto brand index, cioè la notorietà del marchio Italia. Lì è interessante quella statistica, perché noi crolliamo nel brand complessivo dell'Italia, per cui è un brand composto dall'economia, dal rail, dalla giustizia, eccetera, quindi siamo passati dal quinto al quindicesimo posto in 2 anni. Però nella percezione mondiale dei settori del turismo, del cibo e dell'arte e della cultura rimaniamo ancora in testa. Quindi con tutti gli sforzi che stiamo facendo, il mondo ci dà ancora credito. Dice, se lo traduco io, non dice questo rapporto per una traduzione un po' così, se voi faceste delle cose, poche cose fatte bene, infrastrutture, voli, accoglienza, rispetto, e il mondo vuole ancora proprio venire, cioè ce lo dicono continuamente, noi vorremmo venire da voi se voi sapeste accoglierci. E poi magari vengono e trovano dei musei ai quali lei dedica un capitolo del suo libro, che sono sostanzialmente, leggendo la sua descrizione, ma lo sappiamo anche da utenti, molto spesso vuoti e incomprensibili in Italia. Ma anche lì le cose che si possono fare nel proprio piccolo sono incredibili. Perché non ci sono delle traduzioni in inglese? Perché non c'è nessuno nelle stanze che ci accoglie e che ci racconta, magari anche con un po' di entusiasmo, con un po' di passione, cosa c'è in quelle stanze? Perché non ci sono, entri in questi musei e si vede la punta della freccia e la descrizione a fianco freccia del VII secolo, maschera, la maschera del XIV secolo, vaso, ok, l'ho capito, lo vedo che è un vaso, ma cosa mangiavano? Perché mangiavano in quel modo? Ora, oggi, tanto più la comunicazione multimediale via internet si è talmente evoluta che rimanere al medioevo della comunicazione, come sono rimasti i nostri musei, è fallimentare. La gente non viene perché non trasmette nulla, non trasmette emozioni, non c'è uno storytelling di quello che è conservato in quel museo, che magari è straordinario. Lei affronta anche il tema del Ministero del Turismo, che era stato abrogato da un referendum, poi era rinato, adesso è stato aggregato al Ministero della Cultura. Lei è d'accordo con questo accorpamento? Deve esistere, sicuramente è già un buon passo che sia aggregato a quello della cultura e non a un certo punto allo sport, come era anche capitato. Secondo me, ma questa è la mia, dovrebbero essere due musei, dovrebbero essere due ministeri forti, indipendenti, collegati ovviamente, perché si parla di due elementi del nostro settore, della nostra nazione, estremamente collegati. Uniti o non uniti, l'importante è che abbiano un'autonomia forte a livello economico, cioè loro devono diventare dei ministeri puramente economici, in grado di creare, di gestire i flussi con sistemi anche manageriali, indipendenti, con delle risorse, non possono avere le risorse che oggi hanno. Faccio un esempio, il sito italia.it dovrebbe essere il nostro portale nel mondo, al di là delle incredibili, allucinanti vicende che è stato sottoposto negli anni, quando sono stati spesi 20 milioni di euro per creare un sito che era diventata la barzelletta mondiale, in cui tutti venivano messi degli strafalcioni incredibili. Ma oggi, che sta incominciando a funzionare, però sono 10 ragazzi che lavorano, è tradotto in 4 lingue. Il sito della Spagna è tradotto in 31 lingue straniere, compreso il sudcoreano e varie lingue indù. Allora, è chiaro che lì noi diventiamo... Non perdiamo in partenza, non abbiamo possibilità nemmeno di competere, perché un ministero, che il portale non funziona, e se non ci sono le risorse, se non ci sono le possibilità per fare questo, è una battaglia persa. Un ultimo esempio, il ministero, un ministero forte che abbia una leadership forte all'interno degli altri ministeri, quindi dell'economia e delle infrastrutture, per esempio potrebbe dire che un'autostrada nella Maremma non deve essere fatta, c'è bisogno di una strada che permetta di viaggiare in sicurezza, l'Aurelia mi riferisco, non un'autostrada. Quindi c'è una priorità rispetto a un ministero tipo delle infrastrutture che deve fare degli appalti, rispetto a un territorio che è fondato sull'agriturismo, metà degli agriturismi italiani sono in Maremma e che viene devastato da questa logica autostradale. Grazie a Emilio Casalini, autore di Fondata sulla bellezza. Buona serata. Grazie a voi, buonasera. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, abbiamo parlato di bellezza, allora parliamo di due arti particolari, il cinema e la musica, e vi segnalo innanzitutto il libro I film da vedere a 20 anni, una filmografia selettiva di Gianni Volpe, pubblicato dalle edizioni dell'Asino, 250 pagine, 16 euro. Questa è la riproposizione di un libro che è stato scritto dall'autore scomparso pochi mesi fa, un libro che si dice nell'introduzione di Paolo Mereghetti gioca una scommessa, quella che il cinema abbia ancora un suo valore, una sua funzione non esclusivamente spettacolare, soprattutto, aggiunge Mereghetti, per quel pubblico di adolescenti o poco più che magari faticano a riconoscere la differenza tra un film visto in una sala buia e silenziosa o sullo schermo di un televisore o di un computer. Una generazione, cioè, per la quale il cinema ha perso quella funzione di veicolo di cultura e di conoscenza che aveva avuto in maniera naturale per molte generazioni precedenti. E allora qui troviamo una serie di schede che ci introducono appunto a tanti film esattamente imperdibili, e poi segue un'altra serie di schede di Livio Marchese che raggruppano i film più celebri per temi: capitalismo e denaro, comicità, ecologia, Gesù, guerra fredda, sport e così via. Un protagonista del cinema del Novecento è Marlon Brando, che è morto 10 anni fa, e lo troviamo nel libro così intitolato di Goffredo Fofi, pubblicato da Castelvecchi, 282 pagine, 17,50 euro. Una tragedia americana è il sottotitolo del libro. Perché questo sottotitolo? Probabilmente per la contraddittorietà della vita del grande attore, il cui successo giovanile l'aveva reso uno dei simboli di una nuova generazione inquieta e ribelle che ebbe i volti suo, di Montgomery Clift e di James Dean. Ma sentiamo come si era caratterizzato, secondo Fofi, Brando rispetto agli altri due suoi colleghi. L'aggressività e la violenza saranno il segno del primo successo di Brando. Nella sua stessa recitazione fatta di silenzi, borbottii e infine esplosioni. Più virile tra i tre, è anche dei tre il personaggio di gran lunga più ambiguo e misterioso. Aggressivo, ma fondamentalmente masochista. Violento, ma nella richiesta di una tenerezza che non sa esprimere. E in attesa di una donna che possa aiutarlo a esprimere. Pronto a provvisori rientri nella norma. Eroe infine dell'incertezza e del dubbio. Aperto a più futuri possibili. L'animalesco maschio tradizionale del tram. L'onesto reduce e coraggioso di uomini. L'operaio anti-racket ma non anti-padrone di fronte del porto. Il rivoluzionario Zapata e il futuro del selvaggio può ben divaricarsi tra un'integrazione sociale attraverso la donna o il puro e semplice gangsterismo adulto. Più complesso, più ambiguo e anche più attore. E nel libro troviamo la vita di Marlon Brando, i suoi tormenti, le contraddizioni che caratterizzarono la sua carriera, che a un certo punto ebbe un crollo anche per le diffidenze suscitate da certe sue prese di posizione politiche, soprattutto a favore dei nativi indiani americani, fino alle ultime fiammate, quella soprattutto di Apocalypse Now. E qui troviamo la vita e la filmografia completa fatta di schede con una descrizione e un commento su ciascun film. E a proposito di Apocalypse Now, per esempio, nel quale per la verità Brando non fu il protagonista assoluto, Fofi scrive che Brando troneggia da Buddha nefasto che assume su di sé il male del mondo e la coscienza del male del mondo. E adesso parliamo di musica, cominciando con le considerazioni di un grande scrittore, Giorgio Manganelli, che fu ospite di Paolo Terni in 5 incontri radiofonici su Radio 3, che troviamo nel libro Una profonda invidia per la musica. Invenzione a due voci con Paolo Terni, curato da Andrea Cortellesse, pubblicato dall'Orme Editore, 160 pagine, 24 euro, nel quale troviamo anche il CD delle conversazioni, all'interno del quale ci sono i vari brani musicali commentati da Manganelli. Quando per esempio ascolta il Tannhäuser, Manganelli utilizza queste parole. Ho ascoltato con molta partecipazione questo frammento della musica di Tannhäuser e mi accadeva di pensare, mentre l'ascoltavo, che ogni ragazzo nasce in un castello di fantasmi e che occorre che un qualche simbolo, un qualche segno, un qualche emblema, un qualche amuleto catturi e disponga quei fantasmi in un ordine in qualche modo vivibile o adoperabile. E per me questa operazione è stata proprio compiuta, direi, sotto il segno wagneriano. e in particolar modo sotto il Wagner del Tannhäuser, e forse di Tristano e Isotta. Ecco, penso al preludio del Tristano e Isotta, dove in qualche modo la tematica lenta, magica, è ancora intorno al castello dei fantasmi da cui il ragazzo crede di affacciarsi su una realtà, mentre in realtà inizierà una serie di ispezioni di ulteriori castelli di fantasmi. E poi troviamo, oltre a queste trascrizioni delle trasmissioni radiofoniche, 5 scritti musicali di Manganelli e 2 commenti finali dello stesso Terni. Una storia della musica è quella di Enzo Beacco, saggista, esperto di musica, che si intitola Offerta musicale, la musica dalle origini ai nostri giorni, 144 opere, pubblicato dal Saggiatore, 954 pagine, 45 euro. Questo è un libro cronologico che parte letteralmente dall'anno zero e poi affronta 144 opere, appunto, un numero scelto non casualmente, perché 144 è il quadrato di 12, è un numero magico, un numero che ha molto a che fare ed è molto importante per la musica. Ogni composizione, ci spiega l'autore, è scelta non solo perché vive nella sua epoca e contribuisce a modificarla, ma perché supera l'esame del tempo ed è tuttora il repertorio, disponibile a un ascolto libero e immediato, a casa, in rete. È parte di un sistema di stelle fisse e segna una tappa in un percorso per definizione vago e confuso. Tra le varie opere citate da Beacco ce ne sono diverse di Mozart, tra le quali il Flauto Magico, che fu una delle opere del salisburghese che ebbe maggiore successo, con repliche quasi quotidiane nei 2 mesi circa che precedettero la morte improvvisa di Mozart. E proprio quel periodo, il periodo finale della vita di Mozart, è considerato nel libro di Christoph Wolff, che è uno dei maggiori musicologi, in particolare studioso di Bach, che si intitola Mozart sulla soglia della fortuna al servizio dell'imperatore, 1788-1791, è pubblicato da EDT, 200 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Davide Fassio. Dunque abbiamo qua gli ultimi anni della carriera di Mozart, nei quali inizia un periodo apparentemente fortunato, che lascia sperare a Mozart che sia arrivato alla fortuna, perché il musicista è stato nominato finalmente nel dicembre del 1787 alla corte imperiale di Vienna, un periodo che durò troppo poco perché si conclude tragicamente con la repentina fine del 1791, che diede adito, come ricorderete, anche a sospetti di avvelenamento. Fu un periodo difficile e anche di ristrettezze economiche, però ci spiega Wolff che queste ristrettezze economiche erano dovute più alla straordinaria prodigalità del musicista che non alla mancanza di guadagni. Anzi, Mozart, scrive Wolff, fu uno dei musicisti più pagati di fine Settecento, ma fu un periodo anche di straordinaria creatività, che viene qui esaminata nei risvolti biografici e nelle analisi delle opere di quel periodo. Per esempio, viene ricordato un giudizio importante proprio di Wagner, che abbiamo ascoltato poco fa, sul Flauto Magico, di cui abbiamo ascoltato adesso alcune battute. Per Wagner, il Flauto Magico rappresenta la pietra angolare dell'opera tedesca. Con notevole precisione, egli identifica gli elementi decisivi che indicano la sorprendente novità e l'eterna validità dell'ultimo contributo di Mozart alla storia dell'opera lirica. Wagner riconobbe il carattere innovativo della musica, ma non capì quanto la concezione mozartiana di vera opera, il reciproco sostegno tra testo e musica e la loro inscindibilità, si avvicinasse alla sua. E negli anni immediatamente precedenti a quelli considerati nel libro di Wolff si svolge il romanzo, che invece ha Mozart come coprotagonista. Il romanzo scritto da una cantante lirica che si cimenta con la narrativa, Vivian Shortwell, si intitola L'amante di Mozart, Rizzoli, tradotto da Roberta Zuppetti, 334 pagine, 18 euro. Una grande cantante, Anna, incontra il grande compositore, con il quale scocca una scintilla che ispirerà a Mozart alcune delle sue più famose arie. E qui troviamo una ricostruzione dell'ambiente di Mozart, ma anche delle difficoltà di un'artista donna ad affermarsi e a sparsi spazio nella corte imperiale, appunto, del Settecento. E passiamo adesso a Beethoven con un libro più CD di Giovanni Bietti, compositore pianista, musicologo, che si intitola Ascoltare Beethoven, pubblicato dalla Terza, 290 pagine, 18 euro. Per tutta la vita, scrive l'autore, Beethoven continua a porre all'ascoltatore e a se stesso domande e a trovare risposte. Ogni sua composizione, in un certo senso, risponde a una domanda, ad uno specifico problema compositivo, alla necessità interiore di cambiare, ricercare, innovare. E quindi il libro affronta questa ricchezza, questa complessità dell'opera beethoveniana. È un libro diviso in quattro parti, come se si trattasse di una sinfonia. Nella prima ci sono le categorie del pensiero musicale di Beethoven, nella seconda parte il rapporto tra l'arte e la vita, nella terza parte, nel terzo movimento, potremmo dire un esame del linguaggio musicale di Beethoven, poi c'è un intermezzo rappresentato dai rapporti con la musica popolare e si conclude con l'esame delle principali composizioni di Beethoven, e nel CD troviamo 49 tracce che ci aiutano a seguire il percorso artistico, l'evoluzione del grande musicista, un musicista che Bietti definisce, forse ancor più dei suoi due grandi predecessori Mozart e Haydn, un vero figlio dell'illuminismo. Con la sua musica egli si rivolge agli uomini, ai suoi contemporanei, e grazie alle forme classiche, alla forma sonata in particolare, mostra loro un mondo ideale in cui si può partire dal contrasto e giungere alla conciliazione, si possono superare e vincere le avversità, si possono esaltare differenze per realizzare una sintesi più alta, e qui, secondo l'autore, sta la stupefacente modernità di Beethoven. Uno dei grandi esecutori di Beethoven è stato Alfred Brendel, tra i maggiori pianisti del Novecento, di cui Adelphi pubblica Abbecedario di un pianista, 158 pagine, 12 euro, tradotto da Clary Tarvopassu e illustrato da Gottfried Wiegand. Da Accenti a Zarzuela per pianoforte solo, una serie di considerazioni scritte, dice Brendel, in età avanzata. Brendel, di cui avete ascoltato appunto alcune note, ama l'aforisma, il frammento, e perciò si trova a suo agio con questo libro fatto da tante voci, trattate anche in poche righe, che ci fanno capire molti aspetti dell'arte di Brendel, di Beethoven, e la considerazione del pianista per i grandi artisti che interpreta. Sentiamo per esempio che cosa dice Brendel dei due autori di cui abbiamo parlato, Mozart e Beethoven. Quale altro compositore sarebbe capace di spaziare dal comico al tragico, dalla levità di molti cicli di variazioni sino alle forze della natura che egli non solo scatena, ma tiene anche sempre sotto controllo? E quale maestro sarebbe riuscito, come Beethoven nelle sue composizioni più tarde, a conciliare presente, passato e futuro, sublime e profano? Mozart, e qui cito me stesso, non è né di porcellana, né di marmo, né di zucchero. Il Mozart grazioso, il Mozart profumato, il Mozart estasiato, il Mozart noli me tangere, il Mozart gonfio di sentimento e quello incessantemente poetico vanno evitati con cura. Una chiave di lettura importante per l'esecuzione di Mozart è il canto operistico. Il Mozart adulto dice ciò che ha da dire in modo puro, privo di scorie, come raro trovare in compositori di altissimo livello. Sono piuttosto i maestri minori a levigare classicisticamente quanto i loro straordinari predecessori hanno lasciato di ruvido, oscuro, ardito e sconcertante. Distillando, diluiscono. Nei begli aforismi su Mozart di Busoni si trova la frase «Insieme all'enigma dà la soluzione». Agli appassionati di Beethoven segnalo il libro di un grande direttore d'orchestra, Aldo Ceccato, Beethoven 2000, attualizzazioni delle 9 sinfonie e delle altre composizioni sinfoniche e corali, pubblicato da Pendra con 200 pagine, 20 euro e introdotto da Quirino Principe. Questo è un libro soprattutto per addetti ai lavori, che segnalo qui per la prova che esso offre della straordinaria ricchezza dei temi, delle sfumature da cogliere nell'opera di Beethoven, e che può fortemente condizionare anche l'esecuzione dei suoi capolavori. Un libro musicale anche è un testo teatrale di Alan Bennett, il grande scrittore inglese, Il vizio dell'arte, che è pubblicato da Adelphi, 138 pagine, 12 euro, tradotto da Maria Grazia Gini. Qui troviamo due assoluti mostri sacri, il grande poeta Winston Oden, di cui abbiamo parlato anche qualche settimana fa a proposito di Berlino, e l'altrettanto grande il musicista Benjamin Britten, che troviamo in un immaginario e mai avvenuto incontro diretto a Oxford nel 1972. Entrambi gli artisti sono ormai anziani, Entrambi non nascondono la propria omosessualità, hanno un diverso atteggiamento nei confronti della vita e delle proprie inclinazioni. Ed è questo testo anche un esempio di teatro nel teatro, perché i due artisti battibeccano in occasione della messa in scena di una commedia alla quale vengono interpretati proprio Oden e Britten, che commentano e borbottano dando sfogo alle proprie riflessioni, come questa per esempio del poeta che adesso vi propongo. Lavoro ogni giorno, anche se non faccio niente. Ho il vizio dell'arte. Scrivo poesie di confortevole domesticità, cercando di catturare le poche emozioni bruciacchiate che sgattaiolano nel mio paesaggio lunificato. Eppure scrivere pare sia terapeutico. Oggi dicono così, non è vero? È terapeutico. Da giovane invidiavo l'occhio di falco di Hardy, il suo modo di guardare la vita da molto in alto. Ci ho provato anch'io, solo che adesso direi di essere tornato terra terra. Mi ha tolto le parole di bocca. E a questo punto... Il confettino. Concludo naturalmente con un libro musicale della collana Le storie dall'opera. Questo si intitola Figaro qua, Figaro là ed è di Fiorella Colombo e Laura Di Biase, illustrato da Giacomo Bertolino per Ballardi, costa 14 euro per 46 pagine e troviamo naturalmente illustrato, presentato e spiegato ai ragazzi Il barbiere di Siviglia, con riferimento ad alcune delle aree più famose dell'opera che si possono ascoltare nel sito della collana. E con questo ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione e Roberto Scaltritti regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.